viveva a Milano, lavorava a Milano, faceva il ferroviere dello Stato italiano. Una famiglia gli aveva, un'idea possedeva. Utopia gridava la sua agenda, ma per lui era libertà. Lo Stato italiano non la voleva, la narcopina lì male ne faceva. Una fiamma era accesa che lo Stato non voleva. I pregiudizi della nazione pronta soltanto a fermare le idee. Lo induceva a pensare che Pinelli volesse ammazzare. La cosa di sì, cercava il pretesto per rischiare lo è diverso. L'occasione arriva quando ne sta stato mise una bomba a Piazza Fontana. L'accusa a Pinelli in un secondo arriva. Pinelli venne arrestato e che la brigida buon sicario Pinelli ammazza. Ammazzò!